Sono sorridenti e carini e mi piacciono i cinesi. Però vorrei conoscerne qualcuno per giocarci a pallone magari, o per litigarci, o per parlare di qualcosa. E invece niente. Fino a stamattina. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 6 minuti e l'8 di dicembre 2010. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Qualche tempo fa ho parlato con un amico dei miei, che era in pensione da un paio di mesi. Mi stava raccontando tutte le cose che aveva fatto in maniera quasi compulsiva in quei 60 giorni da quando aveva smesso di lavorare. Aveva riparato il tetto della casa in campagna, sistemato il giardino, pulito il garage, la soffitta e la cantina. Aveva fatto una settimana in Mar Rosso con la moglie, stava cominciando un corso di pittura e frequentava l'università della terza età, eppure era ancora irrequieto. Mi ha confessato che la cosa che gli mancava di più, però, non era il lavoro, non erano l'ufficio o i colleghi, non era nemmeno alzarsi la mattina presto e avere qualcosa da fare. La cosa che gli mancava di più era la scansione della settimana, 5 giorni feriali e 2 festivi. Cioè, gli mancava il fatto che il lunedì, a suo modo, è un inizio e col tempo ti ci abitui. Che il martedì era sempre il giorno più prolifico per lui, perché non c'erano le scorie della settimana passata e le cose da fare erano più lineari. Il mercoledì era sempre di mezzo. Da lì però potevi guardare la settimana come da una boa che stavi girando. Il giovedì per lui era il giorno migliore. Riusciva a fissare gli appuntamenti con anticipo e ci arrivava già preparato. Il giovedì diceva che giocava a calcetto la sera e quindi aveva qualcosa di bello da aspettare. Sosteneva addirittura che il giovedì fosse ancora meglio del venerdì. Che il venerdì è da sempre sopravvalutato, perché è l'ultimo giorno della settimana e con la testa sei già altrove. Il problema però è che le cose da fare ce l'hai pure il venerdì. E quindi lui diceva che fai il doppio della fatica, perché devi concentrarti per rimanere concentrato e non sentire neanche la stanchezza della settimana. Lui sosteneva che il venerdì di oggi, è il nuovo sabato del villaggio, che lo aspetti, e quando ti svegli il sabato mattina hai il terrore di non fare tutte le cose che hai accumulato in quei 5 giorni. Ecco che cosa gli mancava da quando era in pensione: la settimana scandita. Diceva che quasi non si godeva più nemmeno il fine settimana da quando non lavorava, perché aveva la sensazione di non esserselo meritato. Io ho sempre avuto una convinzione, ho sempre pensato che il lavoro può essere vissuto in due modi. Il primo è il più lineare, forse anche il più semplice, cioè il lavoro è un modo per avere un sostentamento per vivere. Vado al lavoro cercando di fare quello che mi chiedono di fare e la mia vita la tengo fuori da lì. Il secondo invece ha più a che fare con la ricerca, cioè con la ricerca di ciò che mi piace e quindi del mestiere che asseconda quei gusti lì. Che uno faccia il primo tipo di lavoro o che faccia il secondo, si trova delle volte a non seguire la scansione che è stata data la settimana, cioè si lavora dal lunedì al venerdì e si riposa il sabato, la domenica e le feste comandate. No, ci sono lavori che non si fermano mai perché il mestiere lo richiede, come il medico, ad esempio, il ristoratore, il vigile urbano, il netturbino, il vigile del fuoco, il cameriere, la maschera del teatro o il parrucchiere, però solo se siete cinesi e vivete a Milano. Ci sono lavori che invece non si fermano mai perché piacciono così tanto che quelli che li fanno non hanno alcuna intenzione di fermarsi, tipo l'atleta, il pittore, il giardiniere, lo scultore, il ceramista, lo scrittore. Per quelli non ci sono sabati e domeniche, non ci sono feste comandate, appunto. Ecco, che facciate l'uno o l'altro tipo di lavoro, la puntata di oggi è dedicata a voi che oggi state lavorando. E il numero è sempre quello, 800240024, oppure per gli sms è 349-238-6666. Oggi vorrei provare ad entrare nei pezzi di vita delle persone che fanno un lavoro mentre gli altri stanno riposando. Qualsiasi lavoro stiate facendo in questo momento, che sia un lavoro che vi siete scelti oppure no, che sia un lavoro che vi piace oppure no, se state lavorando in questo momento, chiamatemi 800240024 oppure il 349-238-6666. Di solito chiamano le persone che durante la settimana feriale, cioè dal lunedì al venerdì, fanno come tutti un lavoro per cui sono o in macchina e stanno ascoltando il programma, oppure possono permettersi di avere la radio accesa in ufficio, in studio, ovunque si trovino. Oggi invece vorrei sentire le persone che abitualmente non chiamano, perché per il lavoro che stanno facendo non hanno la possibilità di prendere il telefono e di chiamare, però in qualche modo hanno la possibilità di ascoltare. Ecco, oggi vorrei sentire in particolar modo voi, per questo motivo la puntata è dedicata a voi, perché questa mattina sono andato a fare una cosa che non mi sarei mai aspettato di fare l'8 di dicembre, un giorno di festa a Milano in cui la città è deserta, e mi è venuto da riflettere sulle persone che stanno lavorando in questi giorni. Nel mio caso è stato un parrucchiere cinese di cui vi racconterò, che però di fatto lavorava come se fosse l'8 di agosto o l'8 di giugno o l'8 di marzo, c'entrava veramente poco che fosse l'8 di dicembre. Però se voi invece state facendo i turnisti, no? Se siete degli stradini, se fate i decoratori, se siete degli scultori ad esempio, avete il vostro studio e state facendo una scultura, avete la radio accesa, se siete gli uomini degli impianti, quelli che stanno allo ski lift oppure che sono sulle seggiovie, all'interno delle seggiovie ascoltano la radio. Di solito le volte che mi è capitato non ascoltavano Radio 24. Se invece avete voglia di smentirmi, 80024 0024. Se all'8 di dicembre avete fatto i giocolieri invece oggi, oppure se siete gli ambulanti e state facendo uno dei 10.000 mercatini di Natale. Ieri ho letto che i mercatini di Natale sono negli ultimi 5 anni si sono moltiplicati in una maniera spropositata, e posti dove non solo non esistevano i mercatini di Natale, ma quasi non esistevano i mercatini, adesso hanno i mercatini di Natale. I miei partono domani per un mercatino di Natale, giusto per... Se fate i casellanti, non so se esistono ancora i casellanti, però fareste veramente felice Tiziano Bonini, che ha una teoria tutta sua sui casellanti e su quelli che pagano ancora il biglietto al casello in contanti. Se fate il commesso di un autogrill, sperso in qualche bretella autostradale, magari nemmeno un'arteria principale. Sapete le bretelle che collegano le autostrade, per cui ci sono autogrill che hanno abitualmente 10 clienti al giorno. Ecco, se state ascoltando in questo momento e siete lì, 80024 0024 349 238 6666. Se l'8 di dicembre state guidando i treni, i bus, i taxi, un traghetto o un aliscafo, il numero è sempre... Se fate le feste per i bambini, quella è una roba che io consiglierei di fare a tutti una volta nella vita. Fare le feste per i bambini. Se l'avete fatte oggi, perché è l'8 di dicembre e non so perché vi hanno chiesto di farla oggi, 80024 0024 349 238 6666. Marco mi dice: io lavoro nel campo immobiliare, vendo e fitto immobili. Non si dice affitto, è la stessa roba ovviamente, però credo che al sud si dica più fittare che non affittare. Mi occupo di importazione dalla Cina ed esportazione del Made in Italy all'estero. Ora sto lavorando. Romina, vabbè, ho un negozio di casalinghi, questo è facile, queste sono le cose più aperte, insomma i commercianti oggi non riposano sicuramente. Massimiliano, faccio l'operaio turnista. Ieri ho fatto la notte, ho smontato questa mattina alle 6 e stanotte alle 22 si ricomincia. Francesca, la libreria di Gian Giacomo Inghe non conosce vacanza, e così alle 13.45 con il nastrino rosso al collo vestirò ancora i panni della ragazza dei libri. Tatiana, dicembre credo sia il mese in cui le librerie vendono tipo il 60% dei libri che vendono in un anno. Tatiana, pure per me oggi uno dei giorni quando si lavora di più, finisco di lavorare alle 8:30 di sera, ma non mi dice che cosa fa. Elisabetta invece: buongiorno dal posto di lavoro, ho il negozio di fronte alla chiesa e oggi è giornata di messa, scampanate, gente che va e che viene dalla chiesa, quindi meglio di oggi non ce n'è. Se state lavorando e state facendo un lavoro che sia obbligato o che sia particolarmente voluto, chiamatemi, 80024 0024 349 238 6666. Un lavoratore io questa mattina l'ho incontrato, faceva il parrucchiere, era aperto ed era cinese. Sì, perché oggi è uno di quei giorni in cui io capisco i giornalai, capisco i preti, capisco i pasticceri e perfino i bagarini dello stadio. Oggi è il giorno in cui io lavoro mentre tutti gli altri sono in vacanza. Non è la prima volta che questa cosa succede nella mia vita, eh? Solo che la patisco un po' di più perché oggi la città è completamente deserta. Ma più che domenica, sembra una specie di capodanno. Deve essere sicuramente per via del ponte, i milanesi sono andati altrove. Però rimane che, insieme ai vantaggi legati al traffico che non c'è, all'inquinamento, tutto quello che volete voi, ci sono tutti gli svantaggi della città vuota. E il più importante, chiaramente, è la solitudine. Sì, è vero che alla fine sono qui in radio, c'è un sacco di gente simpatica che mi piace, eccetera, eccetera, però so che una volta che sarò uscito di qui, io non troverò nessuno per la strada. E quindi è come se fossimo insieme, però da soli. E per la prima volta ho capito come si deve sentire un immigrato in questa città, che potrà pure avere il suo gruppo di parenti o di amici, la sua comunità di riferimento, qualsiasi cosa. Eppure è chiaro che patisce di non essere nel mondo dove è nato e che conosce e da cui è fuggito. solo perché non c'era scelta. Ecco, stamattina mi sono sentito un po' uno di loro. Cioè, mentre camminavo per strada mi sono chiesto che cosa avessi di diverso, ad esempio, dal peruviano che camminava per via Padova o dal cinese che gira in bicicletta per via Canonica. Che poi io in realtà qualcosa di diverso ce l'ho, è che io ho una missione molto precisa. Io devo infangare Italo e far innamorare Natalie di me. Questa città praticamente è diventata una sorta di terra di mezzo dove si svolge l'avventura di Matteo che salva la principessa dal malefico drago. Italo non mi piace e Natalie non lo ama, ma questo non basta. Lei deve essere convinta a lasciarlo. Deve essere convinta a liberarsi della sua prigione. In fondo basta vederci insieme per capire che siamo noi due quelli fatti l'uno per l'altra e che Italo è solo un perditempo che ronza dietro a tutte le donne, che si infilza nell'esca che ho buttato col mio profilo Facebook, che ha mille prede nel suo mirino, che vuole sedurre Michela Pesca, anche se lei non esiste. Io ho una missione da compiere in questa città deserta, piena di gente sola, come me. E per combattere meglio, oggi ho dovuto rinforzarmi, ho dovuto caricarmi. E allora sapete cosa ho fatto stamattina per farmi coraggio e sentirmi meno solo? Sono andato a tagliarmi i capelli, come una specie di Sansone al contrario. Sono andato dal parrucchiere, ma non quello solito, che nei giorni di festa chiude. No, no, oggi sono andato da un parrucchiere cinese. Così, i cinesi sono un mistero per me. Allora, loro sono in questa città dagli anni 20, però nessuno che io conosca ha un amico cinese. Cioè, che se ci pensi non è normale. Perché ormai sono parte di Milano, cioè sono parte di questa città. Hanno attività commerciali, hanno laboratori di produzione, popolano un intero quartiere, portano energie produttive, energie creative, però con noi non ci parlano. Cioè, quando vai al ristorante, a malapena c'è una cameriera che dice qualche parola di italiano. Cioè, sono sorridenti, carini, non ho niente contro i cinesi, anzi. Però vorrei conoscerne qualcuno per farci una partita a pallone, farci una discussione, per parlare di qualcosa. E invece niente. Fino a stamattina. Dunque, scegliere il parrucchiere dove andare è stato difficile, perché non sono mica cose che si trovano sulle pagine gialle, no? O sulle applicazioni dell'iPhone. I parrucchieri cinesi devi passarci davanti. E allora li vedi. Io me ne ricordavo uno in Piazzale Cuoco, forse me l'avevano suggerito, non mi ricordo. Solo che prima di arrivarci ne ho incontrato un altro, per strada, mentre camminavo, e non ho saputo resistere alla tentazione. Una sola piccola vetrina e una grossa foto di una signora pettinata tipo anni 80. Non ho saputo resistere alla tentazione di qualcosa di completamente nuovo. Io non ho mai amato farmi tagliare i capelli, ti fanno aspettare come se fossi dal dentista o dal medico. Fa sempre troppo caldo, c'è un odore di lacca o di shampoo insopportabile. E poi devi chiacchierare, ogni singola volta, come se fosse quasi un compito. Ovviamente di argomenti assolutamente inutili, o del tempo. È quasi come se dovessi fare un favore a loro. E in più ci sono delle persone che ti mettono le mani addosso, anzi in testa. Tutti usano un rasoio elettrico, quello che ti fa andare i peli nel colletto della camicia. E poi costa un sacco. Pensavo che il cinese sarebbe stata un'esperienza non banale, magari pure meno fastidiosa, o perlomeno meno ossequiosa, meno formale, diciamo, meno sgradevole. E invece no. E invece l'odore di lacca era sostituito da un misto di puzza di fumo e di cibo. Al posto della gente che aspetta c'era una giovane donna che allattava un neonato. E invece del barbiere con cui chiacchierare di cose inutili c'era un tizio che aveva un'unghia del mignolo molto lunga. E in mano aveva una grossa forbice di metallo. E invece del caldo, faceva freddo. Mi sono tenuto il giubbotto in grembo e sono stato coperto con un telo che raffigurava Marilyn Monroe. Mi sono seduto davanti allo specchio e mi sono chiesto che cosa avessi fatto di male per meritare tutto quello. Nel frattempo, nel retrobottega, avevo intravisto una signora sdraiata su una branda. Io ero l'unico avventore. Non c'era musica diffusa, non c'era niente. Ero in Cina e non parlavo il cinese. E in più non riuscivo a farmi capire da sto tizio con l'unghia lunga, che naturalmente non sapeva la mia lingua. Ci siamo capiti a gesti, che poi a vedere il risultato non ci eravamo capiti per niente. E poi ho solo sperato che finisse in fretta. Sì, i cinesi erano un mistero per me e dopo questa mattina lo sono ancora di più. Arrivato in radio ho guardato Bonini e gli ho detto: oggi taglio cinese, 8 euro, mica male, no? Lui mi ha dato un'occhiata e ha risposto: li vale. Forse è meglio concentrarsi su una saliva. E poi vi comprerò un gel. Ho letto nell'introduzione di un libro qualche tempo fa, un libro che parla di lavoro, queste frasi: il lavoro è una condizione indispensabile per la realizzazione della personalità e la solidità delle strutture sociali, la famiglia, la società e lo Stato. Eppure un'altra vita è possibile, una vita in cui il tempo è a propria disposizione, in cui i giorni scorrono liberi e senza fattori condizionanti, una vita senza lavoro. Ma un'esistenza del genere presenta molte difficoltà e altrettanti ostacoli: la gestione economica, la sussistenza quotidiana, ma anche l'angoscia di come trascorrere un tempo libero smisurato. E poi soprattutto la guerra contro il giudizio degli altri, quelli che hanno da fare tutto il giorno, quelli che lavorano. Qualcuno però questi problemi li ha saputi affrontare e risolvere con grinta e tenacia. Questa è l'introduzione al libro che si chiama Io non lavoro, storia di italiani improduttivi e felici, l'autore Neri Pozza. Ci sono degli stralci all'interno che parlano proprio di quello, di lavorare e non lavorare, di come ci si sente quando non si lavora in mezzo a persone che lavorano tutte quante, perché non so se avete la sensazione, però quando vi guardate in giro e vedete la gente che lavora, nessuno ha un attimo di tempo libero, sono tutti guarda, no, guarda, lascia stare, non mi parlare che oggi è una giornataccia. No, oggi ho un sacco di cose da fare. Sto andando a montare un vetro in un famoso locale di Roma. Mi piace il mio lavoro, odio le feste, Alessandra. Faccio il preparatore fisico in serie B di basket. Oltre alle domeniche giochiamo anche nelle feste. Tra due ore inizia la partita, in bocca al lupo. Fabio, Ancona, faccio il calzolaio e sto lavorando. Beh, questo però per scelta, immagino. Sono Daniele da Treviso, sono sul camion. I trasportatori non si fermano, ma no, però oggi in teoria c'è il blocco dei camion, dovrebbe, sentivo le strade prima, dovrebbe esserci blocco, invece niente. Daniele da Treviso, sono sul camion che trasporto stracchino fresco a Casatella per i distributori di supermercati, in modo che domani all'apertura nei banchi ci sia la merce fresca. Io, il mio camion e la mia solitudine. Daniele, un'immagine bellissima, guarda. E vi immagino come una triade unica, come la triade famosa. Ciao Matteo, lavoro in aeroporto a Malpensa per una multinazionale americana di trasporto express, 365 giorni all'anno. 800 24 0024 349 238 6666. Sono le persone che stanno lavorando in questo momento, dopo la borsa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo in una birreria. Oserei dire una birreria perché ci sono due soggetti di questa fotografia. Il primo è un grosso boccale di birra, grosso intendo direi un litro. No, un litro è troppo. Forse mezzo litro, non ho idea, non bevo birra. Comunque è un boccale di birra abbastanza grande, tenuto dalle mani di un adulto, chiaramente. Si vedono solo le mani dell'adulto. Dietro questo boccale di birra invece c'è un bambino o una bambina di età indefinita, probabilmente tra 1 e 2 anni. Il papà, immagino, tiene il boccale di birra vicino alla bocca del bambino che guarda un po' terrorizzato l'obiettivo della macchina fotografica. Non è un fotomontaggio, ma sono sicuro che non è andata come sembra stare andando. Emanuele Dutto, 33 anni. Ecco mia figlia Giulia, 11 mesi, con la sua prima pinta di birra a Londra. PS, i baffi sono dello yogurt appena mangiato. Io sono qui. L'avevo detto che non era come sembrava, che i baffi non sono della birra ma sono dello yogurt. La foto è come al solito sul sito radio24.it, alla pagina Io sono qui, oppure andate a spulciarvi tutte le foto che si trovano sul profilo Facebook Matteo Caccia, Io sono qui. Gente che lavora, allora, noi stamattina alle 6 abbiamo incassettato pesce perché domani non è festa e deve essere pronto il pesce fresco. Tra le categorie di lavoro che ha elencato le è sfuggita quella dei carabinieri. Un saluto da Marcello. E poi c'è un altro, i carabinieri sono di pattuglia anche oggi. Ciao Marco. Ma allora la domanda nasce, diciamo, direttamente ai carabinieri, la rivolgo. Ma di pattuglia non si ascolta solo la radio dei carabinieri, non si ascolta il VHF, si può ascoltare... Anzi, altra domanda, ma le auto dei carabinieri hanno l'autoradio? 349 238 6666. Ciao, sono Massimiliano, anch'io guido un treno. Ah, come? Anche oggi guido un treno e porto le persone a casa. Chissà dove, auguri, ciao. Ma tu sei sul treno, Massimiliano? Se sei sul treno, chiamaci. 800240024. L'altro, Bonini ha fatto il gesto del treno come se fosse un volante, però credo che sia diverso, no? Abbia degli strumenti diversi. Ciao, caro Matteo. È un sms che parte un po' come una lettera. Caro Matteo, sono un avvocato. Mi sono svegliato alle 12. Ho pranzato e adesso sono nel mio studio a giocare con i documenti. Il telefono non squilla. I collaboratori non so, sono chissà dove. Un filo di radio, parentesi, e pensare che quando vendevi tutto mi eri pure antipatico. E sto facendo il lavoro più bello del mondo. Alessandro da Pescara. 800240024. Andiamo però a sentire subito Rosy da Messina. Pronto, Rosy? Pronto. Ciao. Ciao Matteo. Come stai? Bene, tu? Io sto bene. Tu stai andando al lavoro, Rosy, o ti manca poco? No, manca poco, diciamo. Quindi sono da ritorno da Palermo e sono andando a Messina, ma più tardi poi, insomma, sono lì al lavoro. Rosy, ma tu sei in auto e ti stai muovendo, immagino, perché ti sento come se fossi, sì, in un forno a microonde. sono con l'interfono, per cui... Ok, così però se stai più vicina ti sento. Dimmi che lavoro fai nei giorni di festa. Io nei giorni di festa praticamente lavoro in una sala bingo. Ma esistono ancora le sale bingo? Sì, sì, qua al sud devo dire che funzionano abbastanza bene, non so lì a... Qui, ma probabilmente anche qui, semplicemente non conosco, non so dove sono posizionate. E cosa fai nella sala bingo? Io lavoro sia in amministrazione che alla console, per cui verifico le cartelle vincenti e... Ma scusami Rosy, ma il bingo è la tombola praticamente, 41! Sì. Sì, giusto, bravo, 53. Sì, e tu, sì, dici i numeri. Però bisogna soltanto fare cinquina o tombola, che lì non ti fa ambo, terno e... Ah, ok. Quindi è molto più veloce. Senti, dammi uno spaccato del frequentatore medio della sala bingo. Disperati. Persone distrutte dalla vita. Sì, sì, praticamente sì, perché bene o male giornalmente vedi sempre le stesse persone. Va bene. Rosy, fai una buona serata e un buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao, buona giornata. Sono nella mia bottega di alimentari bio a Pavia, dove ascolto tutto il giorno Radio 24. Bravo, e rimani lì. Andiamo in provincia di Arezzo, da Romeo. Pronto, Romeo? Matteo, buonasera. Buonasera. Ma tu fai il minatore, veramente? Sì, veramente. E lavori sempre, anche oggi? Certo, noi lavoriamo a parte dalle festività natalizie una settimana di agosto, altrimenti il nostro lavoro si svolge sempre sulle 24 ore, 7 giorni su 7. Ma scusami, ma ad Arezzo o in Toscana, dove sono le miniere e che miniere sono? No, non miniere. Io sono la costruzione di grandi opere, ferrovie, metropolitane, autostrade. Attualmente stiamo costruendo la variante di Valico, il raddoppio dell'autostrada sul tratto appenninico fra Firenze e Bologna. La variante di Valico, la state costruendo? Sì. Questa è una notizia, l'abbiamo data? Facciamo un'ansa. Ma scusami, e quindi tu cosa fai? Scavi, fai esplodere? Scaviamo, perforiamo, carichiamo le volate con l'esplosivo, facciamo esplodere, smariniamo il materiale, montiamo le centine e poi via via, piano piano, insomma, con i dovuti tempi, che se ne dica al giro, ma con i dovuti tempi poi portiamo a compimento l'opera. Senti, attualmente questa galleria qui è 9 chilometri, due gallerie, due gemelle da 9 chilometri a tre corsie per ogni senso di marcia, quindi è un'opera... Ma scusami, sono 9 chilometri, a che punto siete? Praticamente le abbiamo già forate tutte e due. Okay. Il 21 dovrebbe arrivare Berlusconi, il Berusca. A inaugurarla? Non a inaugurare, però a inaugurare la fine della perforazione. Poi per l'80% le opere sono finite anche come cementi armati e rimangono poi ovviamente tutta l'impiantistica. Senti Romeo, scusami, perché hai un vocabolario che è meraviglioso, ma per fare il lavoro che fai tu hai una preparazione particolare oppure uno comincia e poi fa esperienza? Guarda, sul lavoro? Se ti devo dire la verità, io sono partito come ingrassino. L'ingrassino era quello che 30 anni fa, il ragazzino che 30 anni fa partiva a titolo gratuito, sì, con una ditta paesana e andava ad ingrassare e a far rifornimento alle persone che guidavano le macchine operatrici, le ruspe, le pale, gli escavatori. Cioè rifornimento di carburante? Rifornimento di carburante e ad ingrassargli il braccio, perché il braccio ha bisogno di grasso, altrimenti si... Braccio meccanico, stiamo parlando del braccio meccanico. E adesso sono dirigente, sono partito facendo l'ingrassino. Romeo, senti, io ti devo salutare, però dimmi quando è che viene pronta sta variante? Quel tratto lì verrà aperto a metà 2012, giugno 2012. Perfetto. Aperto al traffico. Perfetto, quindi ci abbiamo un anno e mezzo ancora. Facciamo, esatto, facciamo in tempo a inaugurarlo un altro paio di volte, secondo me. No, lo facciamo il lavoro. Romeo, grazie mille grazie e buona serata. Ciao, grazie. Oggi mi è arrivato invece un messaggio su Facebook di Michele che dice: sono imprenditore nella vendita al dettaglio di intimo. Ho 6 negozi nella Puglia. Sto cercando di costruire una catena di negozi di intimo chiamato Intocco. La nostra produzione è tutta esclusivamente made in Italy, perché chiaramente si manca un po' di pubblicità. Oggi abbiamo l'apertura straordinaria, come sempre sono in giro per negozi. Pronto Michele? Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Grazie, tutto bene. Senti, come vanno questi negozi? Com'è che ti viene di aprire dei negozi di intimo? È una, diciamo, una passione di mio padre. Lui è nato commerciante, insomma. Da bambino mi portava in giro con lui. Insomma, è una passione che mi ha inculcato anche a me, insomma. Lui... Ma per i negozi di intimo, non per l'intimo in sé in generale? No, lui ha incominciato a fare l'ambulante in un altro settore. Poi ha aperto un'azienda, un calzificio che si chiama, se posso, Best Calze. Vai. Da 25 anni, insomma, siamo su Andrea. E avete 6 negozi in Puglia di intimo? Abbiamo 6 negozi, sì. E che cosa fai in giro l'8 di dicembre? In giro si va perché, sai, stamattina mi sono alzato presto a portare degli espositori perché stiamo cambiando, insomma, l'esposizione. Senti, mettiamo la lingerie rossa, no, per Natale. Ah, certo. Allora... Si comincia l'8 di dicembre con la lingerie rossa, no? Certo, come si mette il presepio, si mette anche la lingerie rossa. Agli stessi tempi del presepio e dell'albero di Natale. Michele, senti, sai dire oggi quanto, no, immagino no, però una stima, quanto hai veduto di più oggi rispetto agli altri giorni? Oggi, insomma, la serata deve finire ancora. Purtroppo il tempo non mi accompagna molto perché non siamo presenti nei centri commerciali, sì. Non ancora. Però io sono fiducioso, via, anche se quest'anno è un po', si sente la crisi, insomma, ecco. È inutile nasconderci. Michele, però siamo sempre fiduciosi e ottimisti, insomma. Ma guarda, quello mi sembra importante. Michele, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, buona giornata. Grazie a te, Matteo, sei stato gentilissimo. Ciao, tu sei stato gentile. Ciao. È arrivato questo messaggio. Spettacolo di cabaret A-E-B-C-A-B-A-R-O-C, o forse A-B-C-A-B-A-R-O-C. Ah, giusto, A-E... Vabbè, me lo faccio dire da lui. Pronto, Frank? Ciao, si dice A e B Cabarock. No, ciao Matteo. Ti ringrazio, ciao. Senti, tu sei un cabarettista, quindi. Tutta Radio 24, vi ascolto un sacco anche di notte, lo ammetto. Ma perché sei in giro di notte o perché ti Beh, sai, si torna di notte dagli spettacoli, quindi... Senti, ma il cabaret è così duro come sembra? Sai che io ho una sensazione, quando vedo uno spettacolo di cabaret, che non sia Zelig, ovviamente, ma uno spettacolo di cabaret in cui la gente lì seduta ti guarda e ti dice, ma dai, adesso fammi ridere. È anche così, comunque noi siamo AIB Cabarock, quindi facciamo musica e cabaret, quindi ci diamo tanto da fare, sai? Fammi un esempio di cosa fate, musica, parodie di canzoni oppure roba vostra? L'ultima scena che stiamo portando stasera è una parodia di Cappuccetto Rosso, ovviamente è tutta un'altra storia, però è tutta musicata, è quasi un musical. Senti, quante date fate all'anno? Diciamo dalle 100 alle 150. Ah, però ne fate di date? Sì, sì. Madonna, sì, scusa, l'ho detto. Ma figurati, e dove siete tu e... Io e Beppe, sì, ci chiamiamo A, io sono B e lui è A, e noi siamo A e B. Senti, so che è una roba orribile, Frank, lo so che è una roba orribile, però me la fai una battuta? No, assolutamente. Boh, bravo, questa mi è piaciuta. Senti, assolutamente, no, volevo solo dirti una cosa. Dimmi. Legata ai giorni della settimana, mi è piaciuta un sacco la storia che raccontavi prima di quell'uomo che è andato in pensione, sì, no? Sì. E che non riusciva a riorganizzarsi la vita, no? Sì. Io ogni anno cerco, come sempre, verso dicembre, inizio dicembre, l'agenda per il prossimo anno, no? Sì. E devo assolutamente trovare un'agenda che abbia le pagine identiche, perché per me non cambia niente fra lunedì, sabato, domenica. Sono tutti uguali. Immagino. Invece normalmente le agendine hanno il sabato e la domenica, che sono riunite in un'unica pagina. L'hai trovata l'agenda già? Certo, ovviamente, ragazzi. Frank, grazie mille, buona giornata. Ciao, in bocca al lupo per stasera. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a Tiziano, a Luca Rinaldi, a Roberto Scaltritti e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi?